Ancora una volta il ministro Guerini, il presidente della regione Giani, il sindaco Conti si ritrovano all'interno di un luogo completamente blindato per decidere sulla testa delle cittadine e dei cittadini come devastare il nostro territorio. Siamo qui come eravamo il 4 maggio a Firenze per dire una cosa semplice come movimento: non vogliamo questa militarizzazione del territorio, non vogliamo la cementificazione, non vogliamo il progetto di una base militare né a Coltano né altrove. Hanno tenuto nascosto questo progetto e lo continuano a tenere. Nessuno ha ancora mai visto questo progetto di devastazione delle aree all'interno del parco di San Rossore. In questo mese e mezzo il movimento No Base è cresciuto e siamo voluti venire qui a Roma con un impegno chiaro e preciso, quello di lanciare a tutta la città, a tutte le città d'Italia, un grande appuntamento per una manifestazione nazionale il 2 giugno contro la militarizzazione. Pace, pane, terra, questi sono i temi fondamentali che noi rilanciamo. Lo vogliamo dire con chiarezza: i 190 milioni di euro attraverso le pratiche del PNRR che il governo Draghi, col sostegno del Partito Democratico e della Lega, vogliono stanziare per realizzare questa nuova infrastruttura, per rendere Pisa la più grande piattaforma logistica per la guerra, devono essere assolutamente tolti e utilizzati per le priorità del nostro territorio. Scuola, sanità, lavoro, tutela del territorio, potenziamento dei parchi. Si svela ancora una volta la falsa transizione ecologica del Partito Democratico e della Lega. Oggi è in corso un nuovo incontro farsa, in cui nuovamente provano a mettere in piedi idee come compensazioni, spezzettamenti, spezzatini. Per noi l'unica parola d'ordine è che quella infrastruttura non venga fatta né a Pisa né altrove. Quel decreto deve essere ritirato. Un'unica voce che chiede rispetto per il nostro territorio, che chiede democrazia, che chiede trasparenza, che chiede partecipazione, che vuole invertire la tendenza per cui si utilizza la scusa del PNRR come pretesto per militarizzare ulteriormente il nostro territorio. Noi vogliamo lanciare un appello alle cittadine, ai cittadini, ai movimenti. Il movimento Non Base è un movimento che raccoglie le sensibilità ambientaliste, pacifiste, femministe, perché il 2 giugno a Pisa ci sia una grande manifestazione nazionale che rimette in piedi queste parole d'ordine. Per questo oggi siamo qui, per chiedere una cosa sola: il ritiro del decreto e il blocco di un progetto che devasta il territorio e che sta dentro una politica di aumento delle spese militari. Su questo ci deve essere un'inversione di tendenza. Il nostro territorio venga smilitarizzato. Facciamo una festa della Repubblica disarmata il 2 giugno per ribadire che le priorità sono altre. Una delle ragioni per cui noi siamo qui è anche legata agli impatti ambientali della base. Vogliamo ricordare che appunto sopra la testa dei cittadini e delle cittadine si decide di fare una base in un parco, in un'area protetta, un parco che dovrebbe essere invece un punto di partenza per favorire la biodiversità e l'agricoltura in un territorio ben più ampio di quello che è ufficialmente tutelato per legge. Fare basi militari e quindi ricoprire con cemento un suolo che è fertile è un gravissimo errore da questo punto di vista, è un gravissimo errore perché crea problemi dal punto di vista idrogeologico, è un gravissimo errore perché è un attacco alla biodiversità, una biodiversità per cui tutta la normativa anche europea, che è stata fortemente voluta dai movimenti ambientalisti, invece in teoria si punta ad un rilancio, a un miglioramento. Questi sono gli obiettivi, questi dovrebbero essere anche gli obiettivi del PNRR per garantire una giusta transizione sia sul piano ambientale sia sul piano sociale. Perché vogliamo ricordare che l'agricoltura dà lavoro, che il paesaggio, la cura del paesaggio dà lavoro, la cura del territorio dà lavoro e anche tutta la ricerca che si deve fare per garantire la biodiversità, per garantire una lotta al cambiamento climatico. Questa è tutta, sono tutti elementi di un'altra economia possibile, che è un'economia di pace e che invece deve rifuggire soluzioni militari, perché vanno nella direzione opposta, è bene dirlo, vanno nella direzione opposta sia a livello locale, perché gli impatti ambientali di una base militare a livello locale sono pesanti, e sia a livello internazionale, perché la guerra porta distruzione anche degli ambienti, dei posti in cui viene portata. E a Pisa si lavora a costruire un polo internazionale per la guerra, perché dobbiamo ricordare tutte le altre infrastrutture militari che ci sono e che insieme a questo progetto andrebbero a renderla veramente un polo di livello europeo. Siamo quindi contrarissimi rispetto agli impatti ambientali che la base causa, e crediamo che questa questione ambientale così importante, così profonda, abbia una profonda relazione con le ragioni della pace.